C'è un'Italia che sfugge al mondo dell'informazione, un'Italia non raccontata, uomini e donne imprevedibili, mine vaganti che vale la pena conoscere. Io sono Federico Taddia e da domenica 18 luglio vi aspetto a Mine Vaganti, 2 ore in diretta dalle 17 per dare voce a un'Italia in grado di sorprendere. E se anche tu ti senti in un qualche modo una mina vagante, fatti vivo e scrivici a minevaganti@radio24.it.